Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Musicisti di tutto il mondo, unitevi, ora potete farlo senza muovervi di casa. Buonasera da Maurizio Melis, questa sera parliamo di Lola, una piattaforma che permette di fare musica a distanza sfruttando reti ad altissima velocità. Oggi Lola è una realtà utilizzata in tutto il mondo che ha fatto conquistare al suo ideatore, la persona che l'ha proposto per la prima volta, il maestro Massimo Parovel del Conservatorio Tartini di Trieste, il Jean Community Award, il premio internazionale che viene riconosciuto a coloro che hanno incoraggiato la collaborazione all'interno della comunità delle reti dell'istruzione e della ricerca. E proprio una di queste reti è stata l'altra protagonista di questa storia. Parliamo della rete della ricerca italiana, il GAR, di cui abbiamo in linea il responsabile dei servizi avanzati, Claudio Allocchio. Buonasera Allocchio. Buonasera a tutti quanti. Allora, la rete della ricerca, insomma, ha dato un contributo sostanziale alla nascita di questa piattaforma. Lola, come funziona e che cosa permette di fare? Beh, Lola è una piattaforma che, come dice il suo stesso nome, low latency, cerca di abbattere al massimo possibile la latenza, quindi il ritardo che c'è nella comunicazione tra due posti o più posti differenti quando sono collegati tra loro attraverso la rete. Quindi cosa fa? Abbatte al massimo la latenza portandola a quel minimo di percezione che non dà fastidio agli esseri umani e soprattutto ai musicisti quando interagiscono tra di loro. Teniamo conto che sperimentalmente si vede che due musicisti si sentono a disagio quando la latenza tra di loro supera i 3 centesimi di secondo, meglio se sono due. Dopodiché cominciano a doversi adattare, avere problemi e così via. Lola è riuscito ad abbattere questo tempo di latenza a una versione molto bassa, stiamo parlando di 1 centesimo di secondo, massimo 2 centesimi di secondo su distanze sui 3.000-5.000 chilometri e permette quindi a loro di suonare veramente insieme come se fossero nella stessa stanza, come se fossero nello stesso posto e di occuparsi di quella che è la loro attività principale, ovvero sia l'arte, e non di doversi occupare della tecnologia che scompare in maniera abbastanza. Ecco, quindi una persona entra, possiamo immaginare, in una stanza dove ci sono delle telecamere, dei microfoni che riprendono il musicista mentre suona e lui a sua volta riceve il feedback dell'altro musicista che potrebbe trovarsi in Australia volendo, che sta suonando l'altro strumento, e il problema è che non ci deve essere più di 1 centesimo o 2 di ritardo. D'altra parte un centesimo più o meno è il tempo che impiega il suono ad attraversare, diciamo, da un capo all'altro una grande orchestra, per capirsi, no? Sì, sì, esatto. Più o meno. L'unico problema è che tra la prima fila e l'ultima fila di una grande orchestra c'è. Ecco, come viene utilizzata oggi Lola? Perché abbiamo detto si è passati da un'idea di un po' di anni fa, ormai a un qualcosa che viene utilizzato abbastanza nel quotidiano. Da chi però? Allora, Lola viene utilizzato soprattutto per quello per cui è nata. È uno strumento per fare didattica a distanza, permettere a studenti e professori di non dover viaggiare, incontrarsi, riuscire a mantenere i contatti dopo che si sono separati perché sono andati da un'altra parte e così via. Però viene soprattutto utilizzata anche per fare altre cose, per esempio, visto che funziona molto bene, viene utilizzata per fare veri e propri concerti, dimostrazioni e così via, ma è stato cominciato a utilizzare anche per attività completamente diverse da quelle che erano l'idea originale, per esempio per fare registrazioni, inventare lo studio di registrazione distribuito tra posti diversi in maniera tale che per esempio i vari componenti dello studio, della band, non devono trovarsi fisicamente per fare una registrazione, ma la possono fare a distanza. Ecco, pensiamo che quando si produce un disco di un certo livello, diciamo, con una produzione abbastanza significativa, può essere che si chiamino molti musicisti anche per eseguire poca roba, insomma, no? Magari per aggiungere uno strumento in un pezzo, in un intero disco, per capirsi. Sì, esatto. Il caso tipico è: io devo fare il mio assolo di tromba in un pezzo e non è che vado a New York per farmi la registrazione, se riesco a farlo a distanza lo faccio con tanto di guadagnato. Senta, quindi cos'altro diventa possibile però grazie a queste reti a bassa latenza? Perché appunto il fatto di suonare insieme non è l'unica cosa, no? No, assolutamente. Beh, ovviamente la prima cosa che può derivare dal fatto di suonare insieme è estendere le altre forme di arti performative, recitare per esempio in teatro, anche se ovviamente recitare richiede delle latenze molto più tolleranti rispetto a quelle che servono nella musica, danzare uguale. Però per esempio ci sono delle cose di cui ci siamo accorti quasi per caso, usando il sistema tra di noi, che non avremmo mai pensato fossero utili, per esempio una conversazione normale tra esseri umani. Certo. Se voi avete mai provato a sostenere una conversazione anche con Skype, con Hangout, per più di una mezz'oretta, non vi siete mai accorti che dopo un po' avete il mal di testa, non sì, comunque, a più bene. Sì, non è fluida la discussione, perché in realtà poi molta della comunicazione passa dal linguaggio cosiddetto non verbale, no? Per esempio, esatto, quando ci sono i video, noi non riusciamo più a vedere le espressioni dell'altro in corrispondenza di quello che stiamo dicendo, e diventa tutto faticoso e artificioso. Esatto, il grande vantaggio dell'Ola è che rende tutta la comunicazione tra esseri umani il più naturale possibile, e soprattutto la componente anche immagine, video, presenza diventa fondamentale. Anche per i musicisti è importante vedersi, soprattutto perché devono sentirsi insieme, guardarsi come respirano, darsi l'occhiatina che gli permette di partire insieme, staccare, attaccare, eccetera. I cantanti è fondamentale che si guardino tra di loro, ma anche tutti i musicisti in realtà continuano a guardarsi durante tutta l'esecuzione. Non è quindi solo l'audio, ma è vedersi e avere il sentimento di presenza di quell'altra persona vicina, che è importante per loro. Insomma, torniamo a questo tema della naturalezza. Grazie, grazie Claudio Allocchio. Prego, grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Buona serata.